innanzitutto, quando voi avete una crisi improvvisa e inattesa, cioè non trovate una causa e vi sentite male senza motivo apparente, e il medico vi ha detto che non c'è nulla di fisico, allora è possibile che abbiate un attacco di panico. In questo caso bisogna rivolgersi a un medico dopo che l'attacco è passato. Nel mentre, la cosa peggiore che uno può fare è in qualche maniera rimuginare e pensare che gli sta accadendo chissà che cosa. Spesse volte basta sedersi un attimo, respirare in maniera un po' approfondita, chiudere gli occhi e il panico tende a passare. Quindi l'acuzie e la natura improvvisa e inattesa sono gli elementi centrali del panico.